Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria è molto densa, quindi andremo abbastanza rapidi sia sul fronte italiano che sul fronte europeo. Partiamo da quest'ultimo. Come già i nostri GR vi hanno ricordato nel corso della giornata, oggi l'agenzia di rating Standard & Poor's declassa il voto sul debito francese, è il secondo declassamento in due anni, lo porta da AA più a AA, con una critica abbastanza esplicita al governo di François Hollande, dicendo che la Francia non ha fatto capire quali riforme metterà in campo per migliorare la sua spesa pubblica e quindi la qualità del suo debito. Notizia questa che, di cui ci occuperemo subito, l'outlook comunque, le prospettive passano da negative a stabili. Notizia accolta con molta freddezza in Francia, infatti Hollande ha confermato la sua strategia economica e anche la rotta intrapresa nonostante il voto di Standard & Poor's, e il ministro dell'economia Pierre Moscovici ha detto i giudizi sono inesatti. Ma dicevo, notizia che contrasta con un'altra notizia di carattere europeo di cui ci occuperemo nella seconda ora del programma. La Germania oggi ha dato riferito al mese di settembre, ha toccato un nuovo record storico mai così forte dal 2008 nelle esportazioni, o meglio nel saldo tra quanto esporta e quanto importa, oltre 20 miliardi di euro, meglio del record precedente che apparteneva all'inizio del 2008. E questa è una fotografia molto più di tante analisi di un'Europa a due velocità o di due Europe, di due aree euro. Nonostante l'avvertimento americano arrivato la settimana scorsa alla Germania che deve tornare a fare investimenti, quindi a diventare, a spendere, se mi passa del termine, non può solo guadagnare dall'export per riequilibrare altrimenti un'area euro che è sempre più squilibrata tra paesi che non possono spendere e fare investimenti e devono tagliare, deprimendo quindi anche salari e consumi interni. Abbiamo visto ieri cosa ha fatto la Banca Centrale Europea nel tentativo di evitare la deflazione, quindi l'assenza di consumi porta a prezzi in calo. Ma nonostante, dicevo, l'avvertimento americano, il dato di settembre è inequivocabile: la Germania non è mai stata così bene sul fronte delle esportazioni rispetto alle importazioni, e invece la Francia viene, tra virgolette, spinta più verso il cosiddetto Club Med, quindi i paesi del sud Europa. E ne parleremo nella seconda ora del programma, perché sono due dati che da soli, ripeto, fotografano una situazione completamente divergente. Per quello che riguarda il fronte interno invece, noi ci occupiamo sempre di casi nostri. Allora, il premier Letta che dice l'IMU, la seconda rata per l'IMU non ci sarà, non si torna indietro, siamo vicini a chiudere, stiamo al lavoro sulle coperture finanziarie e anche sul lavoro. Devo dire che fa un po' specie vedere come da un lato ci siano queste grandi dinamiche di carattere internazionale, di politica estera più che di politica economica, e dall'altro invece in Italia ci si continua a occupare di IMU, in seconda rata, e di altre cose obiettivamente minori rispetto a questi grandi scenari e sfide che rischiano di mettere in discussione la tenuta stessa dell'area euro. Ancora sul fronte italiano però due notizie che riguardano: una, Telecom Italia, più come reazione di borsa dopo il consiglio di amministrazione di ieri, e quindi il consiglio di amministrazione importante che ha deciso quali dismissioni operare, però insomma, la borsa ha reagito malissimo. Perché? Perché dopo che ieri si è saputo che il piano industriale Telecom vedrà un'emissione di un'obbligazione da 1 miliardo e 300 milioni di euro, la cessione di Telecom Argentina, la cessione delle torri di telefonia mobile in Italia e in Brasile, la cessione dei canali digitali di Telecom Italia Media, la borsa oggi vende Telecom in maniera massiccia, meno 5,60%, è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Il secondo peggior titolo è Finmeccanica, meno 5,59%, se vogliamo essere precisi, percento. E poi invece gli altri titoli sono, hanno cali decisamente più contenuti: ST Microelectronics perde 1,60%, Popolare di Milano meno 1,50%, ma anche qui c'è una notizia degli ultimi minuti di cui ci occuperemo. ripeto, la giornata è abbastanza intensa perché è Maretta nel consiglio di gestione della Popolare di Milano, praticamente si è dimesso in blocco sia Andrea Bonomi sia i consiglieri Davide Croft, che il delegato Alessandro Foti e Dante Razzano, con efficacia dal prossimo 21 dicembre. La notizia è arrivata circa 20 minuti fa, mezz'ora fa. La Popolare Milano perde l'1,40%, Fiat l'1,20%, la Popolare Emilia Romagna l'1,15%. Fronte opposto invece bene, Ansaldo STS più 5%, Enel più 3,60%, Banco Popolare più 3,50%, Enel Green Power più 2,5%, Mediolanum più 2,20%, Diasorin più 2%, complessivamente Milano guadagna lo 0,40%, mentre Parigi perde lo 0,5%, Francoforte lo 0,16%, Londra più 0,14%, l'America guadagna mezzo punto percentuale. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Dato americano, la disoccupazione sale al 7,3%, ma sappiamo che è diverso il tasso di occupazione dal tasso di disoccupazione, nel senso che uno misura chi non lavora tra chi vorrebbe, l'altro misura chi non lavora tra tutta la popolazione attiva. Dicevo, la disoccupazione è salita al 7,3%, ma a ottobre l'America ha creato 204.000 posti di lavoro contro i 120.000 previsti. Uno dice: perché sale il tasso di disoccupazione? Perché probabilmente aumenta il numero di persone che si mette a cercare un lavoro e quindi non resta più alla finestra, appunto la differenza tra occupazione e disoccupazione. Per quello che riguarda la Cina, arrivano dati positivi sul commercio ad ottobre, le esportazioni sono cresciute del 5,6%, ma cosa per noi più importante, le importazioni cinesi sono cresciute ancora di più, più 7,6%. E gli economisti sono concordi nel dire che la salute della seconda economia del mondo, quella cinese, è migliore di quanto non si pensasse. Dell'export tedesco abbiamo già detto, così come del contrasto con quanto invece deciso sulla Francia. E poi il Financial Times di oggi, che boccia, tra virgolette, Roma e promuove Madrid, perché dice: Spagna e Italia sono precipitate assieme nella crisi, però attenzione, stanno divorziando, nel senso che Madrid ha superato Roma nella corsa dello spread e gli investitori stanno premiando il ritorno alla crescita spagnola. È di questa settimana il dato che la Spagna è uscita tecnicamente dalla recessione, anche se di poco. Invece l'Italia ha offerto poche sorprese positive. La sua politica, cito testualmente il Financial Times, resta sempre torbida per gli investitori stranieri e se questo dovesse essere confermato e proseguire, sarà un ulteriore segnale che la crisi dell'area euro è entrata in una nuova fase meno acuta, ma dove gli investitori si muovono selezionando di più. Traduco: prima nel 2011-2012 Spagna e Italia venivano accomunate, a mio avviso in maniera anche impropria, l'Italia era più forte, la Spagna è più forte industrialmente della Spagna, accomunate come i paesi a rischio. Adesso la situazione è meno turbolenta, lo vediamo dallo spread. Però si fanno anche distinguere, si dice: bene, la Spagna ha fatto delle riforme e sta tornando a crescere, l'Italia invece è ancora invischiata, impantanata, la politica appunto viene definita torbida. E mi chiedo come possono arrivare giudizi diversi se, e lo dico con massimo rispetto per il governo e per le forze politiche, siamo da mesi ancora a parlare della seconda rata IMU. Tre giorni fa il ministro dell'economia Saccomanni ha detto: non so se vi sono le coperture, poi smentito da altri colleghi di governo. 2 miliardi e 400 milioni il valore complessivo della seconda rata IMU, per carità importante ma non risolutiva di fronte a queste sfide per rilanciare consumi e investimenti in questo paese. Eppure ci si occupa anche e soprattutto della seconda rata IMU. Oggi è tornato il premier Letta, dicevo, non si torna indietro. Siamo al lavoro sulle coperture e anche sul tema del lavoro. La prima e la seconda rata dell'IMU non verranno pagate dalle famiglie italiane, è una decisione già assunta, punto, e sulla quale non si torna. Il ministro Saccomanni ha detto quello che anch'io dico e che tutti noi diciamo, e cioè che la copertura di questo tema per quanto riguarda la seconda rata è una copertura non semplice, sulla quale stiamo arrivando a conclusione, ma il tema per quanto riguarda le decisioni politiche sta nei termini in cui l'ho detto. E non c'è da fare, da montare polemiche in più. Mi rendo conto che questo è un periodo nel quale si accavallano le discussioni con la legge di stabilità, le discussioni dentro i dibattiti politici dei partiti, quindi ogni tema diventa occasione di terremoti politici di un tipo o di un altro, però mi preme essere su questo secco e, se è possibile, ultimativo. Allora vedo... Sì, vedo che alcuni, giustamente ne parleremo nella seconda ora del programma. A mio avviso in questo momento la sfida di politica estera, occorre che Letta torni anche a Bruxelles in accordo con Hollande, perché a me sembra che continuiamo a guardarci l'indice, a guardare l'indice e non la luna, per usare un esempio, a guardare la punta dei nostri piedi, IMU, non IMU, lasciamo stare poi tutti gli strascichi, e adesso ne parleremo, anche la RAI e quant'altro, però insomma le sfide qui sono sul futuro dell'Europa e dell'euro, non sull'IMU, seconda rata o no. Vabbè, detto ciò, ha ragione chi scrive al 349-238-6666 che la disoccupazione spagnola è alle stelle, la seconda più alta dopo quella greca. Storicamente la Spagna ha sempre avuto un tasso di disoccupazione più alto della media europea, però evidentemente, come giudizio degli investitori e degli analisti, il fatto che abbia fatto delle riforme, che sia tornata a crescere, è un elemento positivo, più positivo rispetto a quelli che arrivano dall'Italia, dove comunque la disoccupazione non è che sia bassa, è un record storico. Restiamo sull'Italia e su Alitalia, perché un nuovo piano di tagli e ridimensionamenti dovrebbe essere proposto dai vertici nel prossimo consiglio di amministrazione, che sarà martedì prossimo. Riduzione degli aerei, cassa integrazione per 1.100 dipendenti e chiusura di altrettanti contratti a tempo determinato. A chi resterà a lavorare per l'Italia verrà proposta la riduzione del 20% della busta paga, con l'esclusione di chi percepisce meno di 40.000 euro lordi l'anno. Tutto questo piano è un piano per traghettare la compagnia, in attesa di capire quanti parteciperanno all'aumento di capitale. E tra l'altro Air France, non partecipando, vedrà la sua partecipazione ridursi dal 25% fino al 6%. Continuano invece a essere sondate le ipotesi, o le piste, come sarebbe giusto dire visto che parliamo di compagniere, di Aeroflotte e ITAD. Voglio dire che si possa però fare affari, fare utile, fare business nel mondo delle compagniere. Ce lo dimostra il dato di oggi della British Airways e Iberia, che è un po' quello che avrebbe dovuto essere la nostra Air France all'Italia. Perché lo dico? Perché British Airways e Iberia, che sono raggruppati in una holding, hanno chiuso il terzo trimestre con un utile operativo di 690 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 270 milioni dello stesso periodo, e superiore alle stime degli analisti. È salita sia l'utile di Iberia da 1 milione a 74 milioni, sia le low cost Vuelung, sia British Airways, che ha quasi raddoppiato, anzi sì, ha raddoppiato il suo utile da 268 a 477 milioni. Ora, questo vuol dire che forse qualche problema di gestione manageriale di Alitalia c'è stato, perché insomma non sono solo le low cost che guadagnano. Iberia e British Airways non sono low cost, forse hanno sbagliato i vertici di Alitalia a concentrarsi sul traffico Milano-Roma, a smantellare le linee o alcune importanti rotte long haul, per esempio sulla Cina, per esempio sui paesi non in via di sviluppo con maggior crescita economica, i BRICS, per cui ormai nel nord Italia, se devi volare sull'Asia, devi prendere qualunque compagnia di bandiera tranne che all'Italia. Cioè, forse c'è stato un errore anche manageriale, può capitare, basta ammetterlo, basta non dare sempre la colpa a altri elementi e non scaricare sempre tutto sui contribuenti. Però noi dobbiamo occuparci d'Italia e chiudo con... mi ridate Brian Ferry, perché quella bellissima sigla che dice Niente resta per sempre, anche se ci fate vedere sempre la solita scena. Io continuo a applicarla a chi non si muove, a un paese che in alcune sue fette e parti continua a mangiare e a comportarsi come se nulla fosse successo dal 2008, mentre c'è tutta un'altra parte del paese che, ahimè, ha capito che il mondo è cambiato. E qui devo mettere assieme ATAC, la Giulia Ligresti e la RAI. Eh sì, Brian Ferry and the Roxy, questo invito a tutti quelli che ancora sono lì. Ancora sono lì, penso all'ATAC, biglietti clonati, fondi neri, finanziamenti ai politici, se ne è occupato anche ieri Oscar Giannino, prima di questo programma. Non manca nulla nello scandalo, ma sembra di essere tornati agli anni 90, agli anni 80. Come un po' i Roxy Music, ecco perché li mettiamo. Biglietti falsi, stampati da ATAC, girati ai rivenditori, che consentivano di accantonare circa 70 milioni di euro l'anno in nero. Questa è l'indagine della Procura e della Guardia di Finanza. Su 1 miliardo di passeggeri annui, l'ATAC è l'agenzia dei trasporti di Roma, su 1 miliardo di passeggeri, gli incassi di vendita dei biglietti si fermavano a 249 milioni, su 1 miliardo di ricavi, appunto. Ora, per fare un paragone, l'azienda londinese di trasporti su 4,8 miliardi di ricavi ne ha 4 miliardi dei biglietti. Non si capiva come mai a Roma su 1 miliardo di ricavi i biglietti contassero solo 250 milioni. A Parigi su 4 miliardi di ricavi almeno la metà, più della metà, arrivano dai biglietti, 2 miliardi e 3. Una frode che andrebbe avanti da 13 anni e a beneficiare dei finanziamenti occulti sarebbero stati, attenzione, attenzione, tutti gli schieramenti politici che avrebbero, sulla gestione oscura, nera dell'ATAC, siglato un patto bipartisan, perché su questo l'accordo si trova sempre, eh? Altro che larghe intese. E l'azienda nel frattempo ha accumulato un debito di 1 miliardo e 600 milioni con perdite per 150 milioni di euro l'anno. Nel frattempo ci spostiamo a Milano, perché se il PM di Milano Luigi Orsi ha chiuso l'inchiesta sulle fittizie consulenze, ne abbiamo parlato decine di volte, che Salvatore Ligresti si faceva pagare da presidente 7 milioni e mezzo di euro da Milano Assicurazioni, hanno anche accusato l'ex numero uno di Fondiera SAI Emanuele Erbetta di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti. Cosa succede? Succede che Giulia Ligresti, quella che ha travolto la Cancellieri, non voglio entrare sul tema della Cancellieri, non è argomento di questo programma, non c'è nessun reato, però quanto opportunità politica, mamma mia. Mamma mia. Giulia Ligresti è stata fotografata lo scorso 25 ottobre mentre faceva shopping a Milano. Uno dice, attenzione, siccome sei domiciliari, ma la legge prevede che se l'imputato è domiciliari non riesca a provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, l'alimentazione, il cibo, il latte, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze. Quindi il giudice dice, se tu sei da solo, nessuno può fare la spesa per te, traduco in maniera un po' brutale, ti autorizzo a uscire a provvedere alle tue immediate esigenze. Io non ho capito quali siano le esigenze di Giulia Ligresti, perché l'hanno beccata il 25 ottobre mentre faceva shopping nel quadrilatero della moda, cioè tra via Monte Napoleone e via Spiga. Mi rendo conto che col tenore di vita che aveva prima, forse l'acquisto di abbigliamento in via della Spiga, via Monte Napoleone, potesse rappresentare la giusta esigenza, ma e come commentare, chiudiamo in bellezza la RAI, che in realtà era un'inchiesta già uscita, comunque ritorna anche oggi 500.000 euro in 4 anni tra orologi, penne, gemelli d'oro e bracciali regalati a vari soggetti. Emerge dai risultati di un'indagine interna dopo una lettera anonima inviata al direttore generale Luigi Gubitosi. Ci sono 6 orologi Jaeger-LeCoultre da 18.500 euro, oggetti in argenteria da 19.000 euro, 40 gemelli d'oro per camice, 17.000 euro il valore, penne per 18.000 euro, bracciali per 19.000 euro, hanno allontanato il manager responsabile dell'ufficio. Anche perché non ho capito, ma perché la RAI deve fare gli omaggi? È in rosso, non riscuote il canone, non è che venga proprio, non è un modello di efficienza scandinava, ma pure i regali? Cioè perde 400 milioni di euro come in 4 anni. Sentiamo comunque il presidente della commissione di vigilanza RAI, Roberto Fico, ospite questa mattina Effetto Giorno qui a Radio 24. La RAI deve fare assoluta chiarezza, però un altro discorso è molto importante, qui parliamo di 500.000 euro, ovvero di 500.000 di euro in 4 anni. Noi sappiamo che la RAI dà all'esterno più in appalti, più di 1.300.000.000 di euro. Allora noi su tutti questi appalti che dobbiamo avere, fare estrema chiarezza e avere tutti quanti i dati chiari e certi e la trasparenza nel modo in cui gli appalti vengono gestiti e vengono assegnati. Questo è uno scandalo veramente di 500.000 euro vergognoso, perché c'è la modalità e la cultura di spendere i soldi pubblici come se fossero i propri. Ma la cosa incredibile è che, almeno a quello che si legge per ora, che poi ci sono persone che hanno accettato questi regali e si parla di parlamentari, di persone comunque della politica, a me si arrivasse anche un solo... Ma esiste, esiste una lista, Fico, di chi ha ricevuto questi regali che voi sappiate, che siete riusciti a capire? No, al momento no, non ho nessuna lista qui con me delle persone che hanno ricevuto i regali. No, non c'è neanche la lista dei regali. Comunque, per non deprimerci, già il weekend si pronuncia non bellissimo, è venerdì, la gente è stanca. Allora, per non deprimerci, non so se si possa dire mal comune mezzo gaudio, anche perché non è un mal comune, ma spostiamoci per alcuni minuti in Francia, dove c'è il corrispondente del Sole 24 Ore, Marco Mussanè. Buonasera Marco. Buonasera a voi. No, mamma mia, hai un tono, hai metabolizzato l'abbassamento di spread di voto di Standard & Poor's? No, non sei. Buonasera a voi. Oh, eccola, un po' no, che qua io d'allegria ne vedo molta poca, Marco, non so più cosa fare. Allora, la reazione della Francia all'abbassamento del voto da parte di Standard & Poor's. Hollande dice noi tiriamo dritto, Moscovici dice non è d'accordo, ma al di là delle dichiarazioni, anzi sentiamo Moscovici così poi ti faccio fare il commento, perché al di là delle dichiarazioni formali vorrei capire se c'è o no la sensazione di una deriva più verso il Club Med che l'asse renano. Moscovici, che è il ministro francese dell'economia. La note de la France a 2A. Il giudizio sulla Francia di doppia A rimane comunque uno dei migliori al mondo e uno dei più alti della zona euro. Siamo quindi un paese estremamente solido. Avete visto inoltre che la prospettiva per il paese è passata da negativa a stabile. Negativa significa che ci sono possibilità per un'ulteriore riduzione del rating, mentre stabile significa che questa eventualità appare remota. In sostanza, la forza e la stabilità della Francia vengono riconosciute dall'agenzia ed è quindi un paese su cui si può fare affidamento. Allo stesso tempo, come ho detto, sono dispiaciuto per questa decisione e ritengo che alcune delle critiche avanzate da Standard & Poor's siano inesatte. Je déplore aussi certains jugements que je considère comme critiques inexactes. E però, Marco Mussanè, le critiche riguardano direttamente le mancate riforme del governo Hollande. Allora, al di là della reazione, c'è tensione, c'è paura? Ma sicuramente un momento molto difficile per la Francia e per il governo francese, al di là del declassamento di Standard & Poor's. Standard & Poor's si limita in sostanza a fotografare una situazione oggettiva, la realtà del paese. Direi che i problemi sono sostanzialmente due, come peraltro Standard & Poor's sottolinea. Uno è l'assenza ormai di un margine di manovra sul fronte fiscale. Tra 2011 e 2013 il governo francese ha varato nuove tasse per circa 60 miliardi ed è arrivato al punto di rottura. I francesi non sono più disposti a tollerare nuovi aumenti fiscali, come dimostrano peraltro le recenti proteste, anche violente, contro l'ecotassa, che infatti il governo è stato costretto a sospendere. L'altro aspetto riguarda l'alto tasso di disoccupazione. Siamo ormai intorno all'11%, il presidente e il governo continuano a garantire che ci sarà una inversione di tendenza entro fine anno, nei primi mesi del 2014. In realtà, e questo probabilmente accadrà, il problema è che accadrà grazie ai posti di lavoro sovvenzionati con soldi pubblici, ai quali verranno destinati circa 3 miliardi e 3 nel 2014. In realtà la disoccupazione continuerà a salire lievemente, come dicono tutti gli osservatori e tutte le grandi organizzazioni internazionali. Ed è chiaro che se tu sommi l'insofferenza fiscale che si sta ormai trasformando in vera e propria rivolte di subbedienza fiscale alla situazione occupazionale molto tesa, è ovvio che i margini di manovra del governo sono molto molto ridotti, mentre il paese avrebbe bisogno, continua ad aver bisogno, di riforme strutturali molto profonde, soprattutto sul fronte della spesa pubblica. Ricordiamo che alla fine di quest'anno la spesa pubblica in percentuale del prodotto interno lordo in Francia sarà lievemente superiore al 57%, è il tasso più alto in Europa, e non si vede francamente una manovra complessiva, un disegno complessivo di riduzione della spesa pubblica. :17:42, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, cambierà l'atteggiamento verso l'Europa di François Hollande dopo il declassamento, Marco Mussanè? Ma dunque, intanto non dimentichiamoci che la Francia ha in qualche modo già incassato la sua linea di credito in Europa, avendo ottenuto da Bruxelles di rinviare di 2 anni, e cioè dal 2013 al 2015, il rientro del deficit al 3% del PIL. Cosa che peraltro, secondo tutti gli osservatori, non accadrà. Secondo la Commissione europea, nel 2015 il deficit francese sarà al 3,7% del PIL, e quindi ha bisogno di fare altre cose per riuscire a rientrare, a centrare l'obiettivo. Quindi la situazione francese è delicata nel suo rapporto con Bruxelles e con la Germania, che ha fatto in qualche modo la garante di quell'accordo. Il secondo aspetto riguarda il costo di rifinanziamento del debito francese, che rimane molto basso, storicamente basso, il decennale è intorno al 2,4%, e anche stamattina non si è sostanzialmente mosso, neppure dopo il declassamento di Standard & Poor's. Ma perché gli investitori continuano a scommettere sul debito francese? Beh, fondamentalmente perché la Francia rimane intimamente legata alla Germania, e la Germania in qualche modo garantisce per la Francia. Quindi la Francia non ha alcun interesse in realtà nello sganciarsi dalla Germania e nel andare a far parte, non so bene come dire, di una sorta di asse dell'Europa del Sud. Sì, sì. Per di più, neanche, paradossalmente, neanche gli altri paesi, almeno i principali paesi dell'Europa del Sud, cioè Italia e Spagna, non hanno probabilmente alcun interesse ad allearsi con la Francia in un contesto di forte competizione dal punto di vista del finanziamento del debito. Spagna e Italia paradossalmente sono messe meglio della Francia in prospettiva, perché se è vero che hanno economie meno solide e strutture istituzionali meno solide, è vero che hanno fatto del lavoro in un modo o nell'altro, fondo, poi si può discutere, si possono discutere appunto le modalità, però hanno fatto un lavoro di riforma del paese che la Francia non ha ancora fatto. Quindi se ci collochiamo in un'ottica, in un obiettivo, in uno scenario di 2 o 3 anni, la Francia francamente mi sembra molto sola e inevitabilmente legata, sia pure in posizione subordinata, alla Germania. Un film che abbiamo già visto. Grazie a Marco Mussanè in collegamento con noi da Parigi, dove appunto corrispondete del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Adesso facciamo la borsa, che vi dico, la faccio io, dovete accontentarvi, perché i due casi più grossi di borsa li tratteremo in maniera indipendente. Allora, borsa sia. Non male oggi Milano rispetto alle altre borse europee, più 0,50% contro Parigi che perde lo 0,50%, Francoforte invariata, Londra invariata e l'America più 0,50%. Però se è andato bene Ansaldo STS, di nuovo voci sul futuro della società dopo le dichiarazioni di Pansa del numero 1 di Finmeccanica, più 5,40%, bene anche il Banco Popolare più 3,90%, bene Enel più 3,60%, qui c'è la trimestrale con un debito più basso delle previsioni, Enel Green Power più 3,20%, scusate, più 2,20%, Mediolanum più 2,60%, Diasorin più 2,40%, Buzzi Unicem in più 2% e Gitec più 1,70%. I casi di borsa si chiamano Finmeccanica, ma qui c'è poco da commentare, meno 6%, ha tagliato le stime di crescita, è arrivata a perdere oltre il 7,8%. E la di Pansa ha detto: il nostro problema ha un nome, si chiama Ansaldo Breda, cercheremo di agire significativamente e immediatamente per minimizzare l'effetto della controllata che produce treni, ma soprattutto crea perdite al gruppo. E poi ha detto che Finmeccanica mantiene un forte interesse ad acquisire Avio Space, ma insomma la reazione del mercato si è avuta sulle stime tagliate. E poi Telecom Italia, meno 5,60%, ne parliamo dopo il traffico. Questa è la reazione al piano arrivato ieri in serata. E l'altra vicenda, in parte, e l'altra vicenda riguarda invece la Popolare di Milano, non tanto per il calo, meno 1,45%, ma perché prima della fine delle contrattazioni, intorno alle 5:20, si è saputo che il consiglio di gestione si è dimesso in blocco, quindi Bonomi, Croft e gli altri consiglieri. Emissione di un'obbligazione da 1,3 miliardi, la cessione di Telecom Argentina, la cessione delle torri di telefonia mobile, quelli per i ripetitori in Italia e in Brasile, la cessione dei canali digitali di Telecom Italia Media e non è previsto lo scorporo della rete, con un ricavo previsto di 4 miliardi per finanziare 3,4 miliardi di investimenti in Italia. Questo è il piano industriale di Telecom Italia. Detto così, uno dice: vabbè, si esce un po' dall'estero e si investe più sull'Italia. Antonella Olivieri, perché la borsa l'ha bastonata pesantemente, meno 5,60%, il titolo è sceso a 68 centesimi di euro per azione come ultimo prezzo. C'è un elemento di interferenza tecnica che è dovuto a questa obbligazione, che è un convertendo, quindi è un'obbligazione che implica un acquisto a termine obbligatorio di azioni e Telecom, e è riservato solo agli investitori istituzionali, quindi professionisti, e già ieri si è visto l'effetto, perché il titolo anche ieri è caduto circa del 5%, e oggi c'è stata la stessa cosa, addirittura con volumi che hanno interessato il 4% del capitale, quindi massicci, per un discorso che è legato proprio alle coperture per questo tipo di bond, in parte. E un'altra parte, però diciamo non c'è ancora un giudizio compiuto nel report degli analisti, perché la conference call è stata fatta ieri sera molto tardi. Sì. Comunque, diciamo, in parte questo piano in sostanza propone una serie di dismissioni e un arrocco sul Brasile, che bisogna vedere quanto temporaneo, e una concentrazione di fatto sull'Italia, che è un mercato che nel piano stesso viene previsto in calo. Quindi, se posso forzare un po' forse il concetto, non è piaciuto il fatto che ci si concentri più sull'Italia, che è un mercato in calo, non solo sulla telefonia, è un mercato in calo e basta, tout court, mentre si rinuncia a Telecom Argentina, e con il timore poi di dover rinunciare sempre sullo sfondo, sempre per volontà spagnola. A questo punto chi comanda, con buona pace del ministro Zanonato, che forse l'ha capita anche lui adesso dopo quelle mitiche dichiarazioni, comandano gli spagnoli, e avere la concorrenza di Team Brasil, il rischio sempre che poi Telecom Italia venga impoverita nelle sue nei suoi asset principali. Tu ti attendi a questo punto, però, per quello che riguarda la componente tecnica, un eventuale rimbalzo poi lunedì, o secondo te questo è, diciamo, il livello su cui il titolo è andato dopo il piano industriale? È difficile dire, perché dipende un po' da tutte queste operazioni che saranno state sicuramente montate intorno a questo bond. E c'è da dire che il fatto che è andato a ruba questo bond dimostra che le condizioni erano molto convenienti. Faccio un esempio: il convertendo Fiat che era andato alle banche era stato, fissava un prezzo di conversione che era il doppio del prezzo di mercato. Qui invece siamo allineati ai prezzi di mercato. E c'è anche un altro problema, è che chi comprava il bond aveva interesse che oggi fosse fissato il prezzo più basso possibile, perché quello sarà il minimo della conversione. Ah, eccoci lì. E quindi ti conviene che la conversione sia meno onerosa possibile, mettiamola così. Mi sposto rapidamente, perché siamo con i tempi stretti oggi, molti temi, a un altro caso di borsa, e mi riferisco alla Popolare di Milano, o meglio, mi correggo, non tanto di borsa, perché meno 1,4% non è un calo, diciamo, degno di noto, drammatico, anche perché poi in generale le altre banche non si sono mosse male, più 0,80 Intesa San Paolo e Unicredit, più 0,50 Monte dei Paschi, e abbiamo detto anche del Banco Popolare che fa più 3,90%. Quello che ha sorpreso tutti, è arrivata la notizia, ripeto, poco prima dell'inizio del programma, poco prima delle 5, è che il consiglio di gestione della Popolare di Milano, già molto tormentato perché sappiamo che lì c'è il gruppo degli amici della Popolare che rivendica poi una sorta di minoranza di blocco, non so come chiamarla, perché nel mondo delle banche popolari ogni azione, ogni testa vale un voto, anche che tu abbia il 10%, che tu abbia lo 0,1, voti sempre per uno. Ci sono soglie anche, soglie fissate per quante azioni puoi detenere, si chiama voto capitario. Insomma, si è dimesso il presidente Andrea Bonomi, il delegato Davide Croff, Alessandro Foti e Dante Razzano, cioè tutto il consiglio di gestione della BPM, con efficacia dal prossimo 21 dicembre, giorno dell'assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Era una decisione attesa? In parte sì, perché di fatto martedì già il Consiglio di Sorveglianza aveva chiesto alla gestione di convocare l'assemblea, quindi iniziando il conto alla rovescia per il rinnovo degli organi. Oggi la gestione avrebbe dovuto fissare l'assemblea, e l'ha fatto sotto Natale come si prevedeva il 21 dicembre, e intanto ha rassegnato le dimissioni, di fatto iniziando a lavarsi le mani un po' come ha fatto la sorveglianza. E questo che cosa vuol dire però per il prossimo consiglio di amministrazione, cioè il 21 dicembre? Perché lì è maretta, cioè tra i manager, la metto un po' semplificata, tra i manager Bonomi che vogliono gestire la banca come una banca normale, non ce l'abbiano con me i crediti cooperativi e le banche popolari, ma c'è una banca SPA, e invece gli amici della Popolare che non ne vogliono sapere di rinunciare allo status di banca popolare. Ti chiedo, come già fatto anche per Marco Mussanè, una risposta dopo il GR e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms, due risposte brevissime, e poi c'è la pagina di Focus Economia su Facebook. Chi dice che noi abbiamo difeso l'operazione di Alitalia che restasse italiana non si ricorda il programma di Focus, le puntate del 2008, non l'abbiamo mai difeso, mi ho sempre detto che l'offerta in Air France andava valutata in maniera molto seria, offriva 1,3 miliardi, adesso offre 0. E già qui c'è tutta la risposta, e che era un'operazione fatta solo per motivi elettorali, perché il centrodestra con Berlusconi pensava che quello fosse un elemento della campagna elettorale. A chi dice che ho sbagliato a dire un asse Madrid-Parigi-Roma, perché l'asse passa solo tra due punti, boh, non lo so se questo è il suo problema. Io mi ricordo però i paesi dell'asse che erano Roma, Berlino e Tokyo, ma non portò bene, diciamo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento sulla Popolare di Milano. Oggi, come già spiegato da Marco Ferrando, in parte atteso, ma comunque la dimissione in parte attesa di tutti i vertici della Popolare di Milano, e quindi a partire da Andrea Bonomi, presidente, dal delegato Davide Croff, appena arrivato tra l'altro, Alessandro Foti e Dante Razzano. Quanto al calor bianco sarà lo scontro il prossimo 21 dicembre tra le due fazioni contrapposte, Guelfi e Ghibellini? Chi vuol mantenere lo status di popolare, quindi tutto ciò che comporta il voto capitario, una testa un voto al di là delle azioni, e chi invece vuole trasformarla in una banca SPA, banca tout court. Ma sicuramente sarà uno scontro forte, così come è stato scontro nelle due assemblee che abbiamo già visto quest'anno, perché non dimentichiamo che la BPM è reduce da due assemblee già nel 2013, quindi comunque, come dire, una cronaca molto, molto intensa. A meno che di qui a dicembre non si riesca a costruire una mediazione che a Bonomi non è riuscita in questi due anni, ma che, stando a quello che è accaduto nelle ultime ore, potrebbe tentare qualche altro socio di capitale, come nel caso ad esempio di Raffaele Mincione. Certo è che dietro questo scontro c'è il nodo che citavi tu, cioè la riforma della banca. Bonomi è stato in banca due anni, tutto è andato bene nel primo anno e mezzo finché si è cercato di risanare la banca. Poi, appena si è aperto il cassetto della governance, quindi progetti di riforma, tentativo di trasformazione in SPA, poi anche edulcorato, è saltato il tavolo e si è arrivato alle dimissioni dei due board. E quindi ne vedremo delle belle il prossimo 21 dicembre. Grazie Marco Ferrando. Prima di arrivare all'ultimo tema, ossia tenere assieme quello che è successo in Francia col declassamento, ne abbiamo già parlato in apertura del debito, e la notizia che arriva dalla Germania di un nuovo record sul surplus commerciale, il giorno dopo il taglio dei tassi della Banca Centrale Europea e la settimana dopo il monito americano alla Germania: dovete iniziare a investire e spendere, non potete solo avvantaggiarvi della vostra posizione, sennò scricchiola l'intera area euro. Vorrei restare ancora per qualche minuto sui temi legati alla borsa, quindi al risparmio, quel poco che c'è, e agli investimenti delle famiglie italiane. Perché? Perché a partire da lunedì prossimo, quindi 11 novembre, il Sole 24 Ore, parliamo ogni tanto anche di noi, non lo facciamo quasi mai onestamente, lancia una versione rafforzata, raddoppiata, di risparmio e famiglia, quindi il nuovo inserto raddoppia lunedì, l'appuntamento con Plus 24 per chi non lo sapesse. E allora, Marco Mariani del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. L'obiettivo, adesso i temi non li vogliamo svelare, insomma, poi li sveleremo con calma, però l'obiettivo qual è? Seguire ancora di meglio questo magma degli investimenti con borse che salgono e vanno in alcuni casi a record, però difficoltà sui risparmi, cioè arrivare a un rafforzamento, con quale direzione? Ma la direzione è quella di fornire ancora una volta, in linea con la nostra vocazione e la nostra impostazione di servizio e divulgativa, un orientamento sui grandi temi dell'economia e del risparmio, con un'ottica particolarissima, molto attenta alle conseguenze che i grandi movimenti dell'economia, come ricordavi tu prima, hanno nella vita quotidiana delle persone e in particolare delle famiglie. Con Risparmio e Famiglia, il nostro supplemento settimanale del Risparmio Plus raddoppia le sue uscite, quindi a quella tradizionale del sabato, quindi appuntamento domani, si affianca anche questa uscita del lunedì, che sarà calibrata in tre profili particolari. Il primo è quello delle indicazioni di portafoglio e di convenienza sui prodotti finanziari, quindi un approccio molto concreto finalizzato a una comparazione sistematica dei prodotti per dare ai nostri lettori delle indicazioni molto essenziali. Il secondo filone è quello delle spese, degli investimenti, del bilancio che la famiglia pianifica per i propri figli. Anche in questo caso un approccio molto fatto di indicazioni essenziali, di confronti che possono spaziare da temi come i piani di accumulo, i conti in banca specializzati per i figli o la migliore gestione degli investimenti per la formazione e l'università. Il terzo filone è quello di un check-up settimanale, di uno strumento per verificare come stanno andando gli investimenti delle famiglie, per capire se alla luce di questa crisi molto lunga, che in corso dal 2007 non sembra terminare mai e che ogni settimana presenta comunque degli sviluppi diversi da interpretare, vanno attuate delle correzioni di tiro nel portafoglio di risparmiatori per riequilibrare al meglio le proprie scelte. E quindi indicazioni del portafoglio, spese per la famiglia e per i figli, investimenti per la famiglia e per i figli, e poi anche il check-up di quello che è successo, dico in maniera un po' sintetica, ai nostri risparmi e come andrebbero corretti. Domani resta Plus 24, lunedì invece parte il nuovo Inserto risparmio e famiglia, grazie Marco domani Mariani. Domani possiamo fare un'anticipazione rapida, domani su Plus si parla di servizi bancari low cost, quindi come ridurre i costi nelle banche. Lunedì il servizio di copertina con cui si apre risparmio e famiglia è i servizi bancari online. Eh sì, avete capito, non potevo, rientrando dopo quasi un mese di assenza, non circondarmi dell'uccellaccio per definizione, anche perché questa è una settimana che merita una visione d'insieme per quello che riguarda l'economia europea. Professor Giulio Sapelli, buonasera. Buonasera a lei, Bavisone, auguri, auguri, l'ho pensata. Grazie, spero diciamo, per la gamba, non per altri. Bella, bene, per la gamba, per altri... ben augurando. Grazie, professore. Allora, venendo a questa settimana, insomma, oggi abbiamo, come ricordavamo, due dati, due notizie abbastanza in contrapposizione, se vogliamo vedere e ricordare quello che una volta si chiamava l'asse, diciamo, renano, centro europeo, perché la Francia vede declassare il suo debito da Standard & Poor's e per la mancanza di politiche e di riforme, quindi una critica anche abbastanza diretta al governo di François Hollande, che ha detto insomma non siamo d'accordo ma resta il nostro debito a doppia A, per cui da AA più a doppia A, quindi con un outlook stabile. Già ricordo che nel gennaio 2012 sempre Standard & Poor's aveva ridotto il voto sulla Francia da AAA a doppia A più, adesso siamo a doppia A. Ormai nel club europeo della AAA restano Germania, Olanda, Norvegia, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia, Svizzera e poi Liechtenstein e Lussemburgo, così per come nota. E dall'altra parte però la Germania sempre oggi fa sapere che l'export tedesco ha toccato un nuovo record assoluto dal 2008, ossia 20 miliardi e 400 milioni l'export tedesco a settembre, il saldo commerciale, cioè tra quanto importa e quanto esporta, ripeto, un nuovo record assoluto. Il tutto il giorno dopo che la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi di interesse portandoli allo 0,25, livello più basso da sempre, con l'obiettivo di contrastare questo rischio di deflazione, quindi di prezzi in calo, prezzi stagnanti, e di portare l'inflazione a quello che è un livello, secondo la BCE, accettabile del 2%, e di stimolare, diciamo, l'economia, anche se sul passaggio tra costo del denaro a prestiti delle banche alle imprese o alle famiglie sappiamo che lì qualcosa si ingrippa. Ora, a me sembra che quanto a ordine sparso ci siamo. Beh, quanto ordine sparso ci siamo, perché mai come adesso la divaricazione dell'asse franco-tedesco è evidente e ci sono tutte le condizioni, che speriamo di evitare, della disgregazione dell'euro. Gli americani hanno dato un pesantissimo avvertimento alla Germania con quella nota durissima, che ci ricorda, diciamo, tempi bellici, insomma. Questo surplus tedesco, che poi dopo, come lei sa molto bene, come sanno anche i nostri radioascoltatori, perché sono assai evoluti, si misura sempre in percentuale, perché questo surplus avviene in un momento in cui il commercio mondiale scende, quindi la percentuale di tutti gli altri che esportano diminuisce, i tedeschi appaiono sempre più ampi nell'esportazione, anche perché tutta l'Europa, voglio dire, che cos'è? È immersa invece nella deflazione, cioè i tassi del denaro, come ha giustamente ricordato lei, cercano di controbilanciare un restringimento della domanda interna che la stessa politica tedesca ha provocare. Devo dire, i tedeschi poi nel loro paese stanno facendo tutto il contrario con la preannunciata coalizione con i socialdemocratici di ciò che impongono all'Europa con questo eccesso di surplus commerciale. Come lei avrà saputo, si lavora su un programma che è fondato sull'aumento del salario minimo, anzi ci sarà un salario statale minimo che farà inevitabilmente crescere i salari contrattuali, quindi vuol dire che i tedeschi si preparano ad aumentare la loro domanda interna, cioè a fare tutto il contrario di quello che sta capitando in tutta l'Europa. E quindi questo cosa vorrà dire? Vorrà dire che la divisione tra quei paesi che lei ha ricordato, che sono i paesi a orientamento teutonico, no? Dove la Germania domina, da secoli, poi potremmo dire, e la Francia, questo declassamento della Francia non sarei molto preoccupato, perché Standard & Poor's guarda da un punto di vista neoliberista soprattutto a cose secondo me non così importanti nell'andamento economico, che sono il deficit, l'aumento delle tasse, meno invece bisogna vedere il volume produttivo, il PIL, e l'economia francese è un'economia gravemente indebolita rispetto ad alcuni anni fa, ma ancora molto molto molto molto stabile. Quindi penso che la situazione è però gravissima e l'unica alternativa è rapidamente costruire un'alleanza italo-franco-spagnola, sarebbe molto bene se anche questo, cioè, sarebbe un collegamento con la Russia, perché la Russia l'unica speranza per controbilanciare il peso tedesco è di spezzare questa cortina di ferro che ancora rimane con la Russia per portare alla ragione i tedeschi. Il problema oggi, vorrei concludere, poi mi taccio perché lei mi farà un'altra domanda, non è più di politica economica, è di diplomazia e di politica internazionale, perché questo atteggiamento degli americani nei confronti della Germania può essere molto pericoloso per l'intera Europa, perché può far presagire un allontanamento sempre più forte degli USA dall'Europa tutta intera. Ecco, lei citava e poneva l'accento molto sull'avvertimento arrivato dalla Casa Bianca la settimana scorsa, che ha detto attenzione, la Germania non può continuare a esportare, inizia anche a fare investimenti, cioè a essere tu stessa motore di un recupero delle aree euro, visto che sei in tale salute, perché se gli investimenti e i consumi languono in Germania, ma soprattutto gli investimenti, investimenti cosa vuol dire? Vuol dire poi permettere alle imprese, per esempio italiane, che sono fornitrici o subfornitrici, di esportare ancora di più, cioè di creare, di riequilibrare una, mi passi l'esempio, una tavola europea apparecchiata in modo tale che c'è chi mangia l'antipasto, il primo, il secondo e il contorno, e che e c'è chi invece, a cui viene detto invece che può mangiare o solo il primo, solo il secondo, magari solo l'antipasto, come nel caso dei paesi dell'area del Club Med, cioè dell'area mediterranea. Noi siamo ormai come i cani che si vedono in quei quartieri del Veronese, dove ci sono dei cani e dei poveri che mangiano ciò che cade dalla tavola dei ricchi. I tedeschi sono gli unici seduti. Ecco, allora su questo lei poneva l'accento sulla preoccupazione americana, è molto preoccupata che l'Europa rappresenti il freno, l'area euro rappresenti il freno di una ripresa globale, anche pro domo sua, nel senso che l'America poi dovrà iniziare pro domo sua. Certo, dovrà iniziare anche con politiche di rientro dal deficit, però mi sembra di capire che lei sposti l'accento ormai da una politica economica in senso stretto a politica estera e diplomatica. Sì. Come si lega? Io vorrei capire due cose. Perché Hollande, secondo lei, non si è mosso prima? Nel senso che noi immaginavamo che con la vittoria di Hollande vi sarebbe stato un asse più Parigi, Roma, Madrid, e da un lato, e non ho capito onestamente perché non si sia mosso per contrastare, diciamo, quella, e dall'altra parte come vede però anche il ruolo italiano, perché anche oggi il Premier Letta è intervenuto, ma è intervenuto su questioni prettamente interne, e mi riferisco all'IMU, la seconda rata dell'IMU, che a questo punto non dovrebbe più esserci. È come se noi guardassimo il dito e non la luna delle volte, sì, con questo scenario. Guardi, rispondo sinteticamente. Io con il mio carissimo amico dottor Ludovico Fetta abbiamo scritto un ebook su Hollande, e purtroppo vede, lei mi fa una domanda che vuol dire paragonare le aquile alle galline. Capisce, Michelangelo era un'aquila, Hollande non dico cos'è, ma Hollande ha rivelato la sua debolezza cognitiva. Hollande ha lavorato tutta la sua vita con Michelangelo, ma pare che non abbia ereditato intellettualmente nulla da lui. Il problema di Hollande è precisamente politico e riflette la grave confusione in cui è il Partito Socialista Francese, direi tutto il socialismo europeo. Per quanto riguarda Letta, devo dire che invece mi ha stupito e deluso, perché era partito molto bene, con un passo europeo indipendente, non da cameriere come Monti, ma invece da maître, insomma, da persona che entra in un ristorante in modo autorevole, da cliente, insomma, esigente. E quindi mi ha molto sorpreso come ormai si intisichisca su questa questione. Devo dire che la politica interna, le sue miserie, la sua bassezza lo stanno trascinando pericolosamente in basso. Letta deve riprendere rapidamente con Alfano, sottolineo con Alfano, e Alfano deve capire che non esce dal gorgo della polemica vis-à-vis con Berlusconi solo se è entra come protagonista assieme alla ITA nell'arena europea. Loro devono rilanciare un'alleanza con la Francia e con la Spagna, con la, diciamo, dell'Europa del Sud, col Portogallo, e capire, io aggiungo anche che è necessario far capire agli americani che bisogna rimettere in discussione l'Europa da un punto di vista gollista. L'Europa deve andare dall'Atlantico agli Urali, e quindi l'unica potenza oggi in grado di controbilanciare la Germania è una più attiva presenza della Russia in Europa. Questo vuol dire però ridiscutere tutti i cardini della politica europea, non solo il bilancio, ma ad esempio la politica energetica. Lei sa che la politica energetica è contestata da tutte le grandi imprese energetiche europee, perché la politica burocratica amministrativa sta distruggendo i margini dell'energia, delle imprese energetiche. Ecco, adesso finalmente abbiamo capito che il problema dei sussidi alle energie alternative è una grande bufala. Ecco, quindi però c'è da ridiscutere tutto. Letta deve ritornare a essere quel leader europeo che nei primi mesi del suo governo aveva dimostrato di essere. Se cade nel problema PD, PDL, eccetera, è morto, ed è purtroppo morto il governo. Se questo governo muore, l'Italia è a gravissimo rischio di entrare in una spirale deflattiva e di decadenza e di disgregazione da cui non usciremo più, se non dopo un secolo. Beh, con questa bella nota e ventata di ottimismo, io, professor Belli, dico, ho già i miei problemi. Adesso mi sento comunque un po' meglio, perché rispetto ai miei problemi, quelli che le ha illustrato, lo dico con una battuta, sono nulla. Mi sembra che però ci siano due passi nella sua analisi, quello più di lungo termine, medio lungo termine, un'inclusione anche dell'area, diciamo, russa nell'Europa, invece quello più a breve, riuscire a trovare diciamo, un patto, un accordo tra i paesi, Francia, Italia, Spagna e anche Portogallo, per far capire alla Germania che se va avanti così, diciamo, va avanti da sola, e con tutte le conseguenze che potrebbe portare anche per la Germania. Però ha ragione nel dire che anche la politica italiana deve tornare a rialzare la testa, a volare un po' più alto, e occuparsi non solo dell'IMU, delle tessere del PD o dei processi di Berlusconi, ma capire che qua è in gioco il futuro stesso dell'idea di Europa. Grazie a Giulio Sapelli, voli lontano, Sapelli. Sempre pensandola, sì. Ben augurando. Con quello che ha detto non so se devo fare gesti scaramantici, comunque grazie a Giulio Sapelli che insegna storia dell'economia alla Statale di Milano. E da Sebastiano Barisoni è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Focus torna lunedì dalle 17 in poi. Intanto un augurio di buon fine settimana a tutti voi. Radio 24. La passione si sente.